Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Di Dario Ricci. Alle 11:10 di sera arriva della gente sull'angolo di via Clara Maffei con la mitragliatrice, ci sparano alla prefettura. Allora il combattimento, io mi metto a sparare, vedo ogni tanto cade a terra qualcuno come Birillo dalla mitragliatrice e ne va lì un altro, eccetera. Era la colonna di Farinacci, un gerarca fascista, che viene da Cremona e va a Como e passa per Bergamo, via Angelo Mai. Il giorno dopo sono entrati i partigiani e io ho partecipato a dei combattimenti in piazza Pontida. Bergamo, uno dei cuori della resistenza. Allora, nei giorni, nei mesi, negli anni tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, come ci ricorda questa testimonianza di un ex partigiano? E oggi, in tempi diversi altrettanto difficili, molla mia, non si molla mai, è il motto che è rimbalzato in questi mesi nelle nostre orecchie da Bergamo e dalle sue valli. E la memoria si sa compie rimbalzi strani, imprevedibili e asimmetrici, come una palla ovale. Bergamo, resistere, la resistenza, una palla ovale. C'è un uomo, un campione, un partigiano, che nella sua vita seppe unire tutte queste cose e sintetizzarle nell'amore per la sua città, il suo paese, l'Italia, e la maglia azzurra. Il suo nome è Aldo Battagion, che un giorno precipitò da un campo da rugby nel lager nazista di Dachau e da quell'abisso seppe ritornare, sempre guidato dall'amore per la vita e per il suo sport del cuore. Ci piace oggi qui a Olimpia seguire le tracce lasciate nella storia da questo splendido mediano di Mischia. Cristiano Poluzzi, bergamasco, insegnante, giornalista e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, ci riporta a Bergamo nei mesi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. La resistenza a Bergamo sicuramente ha trovato in Bergamo, nella città di Bergamo e chiaramente anche nelle valli, nei territori circostanti, una delle sue province più, come dire, tra le più rappresentative, mi verrebbe da dire. La resistenza bergamasca è variegata e eterogenea, un po' come tutta la resistenza italiana, quindi le bande partigiane, per rimanere un attimo a soffermarci soltanto sull'aspetto più classico, quindi più militare, l'aspetto quindi proprio della guerra e della guerriglia, erano bande composite all'interno delle stesse brigate Garibaldi, brigate di orientamento comunista legate al PC, c'erano partigiani che provenivano da esperienze politiche, culturali, sociali diversissime. Io cito l'esempio della 53esima brigata Garibaldi, che ha operato in Valseriana sostanzialmente, che era comandata, guidata da un comunista, Giovanni Brasi, ma che aveva al suo interno un orientamento estremamente plurale e pluralistico. Insomma, sottolinea Poluzzi, tra la città e le valli c'era una sintesi delle tante anime della resistenza italiana. La resistenza bergamasca è, come dire, mi piace vederla appunto come un esempio di pluralismo politico che si è compattato attorno all'esigenza di lottare contro un regime totalitario che nei 20 mesi della resistenza aveva assunto anche le sue connotazioni più brutali in connessione anche con l'occupazione nazista. È in questo contesto che emerge Aldo Battagion, bergamasco, classe 1922, figlio di industriali, scopre il rugby a Milano negli anni dell'università, prima tre quarti, poi mediano di Mischia. Poi a Bergamo gioca nella GIL, la gioventù italiana del Littorio. L'8 settembre lo sorprende con quella maglia sotto la divisa militare, ma la scelta di campo è immediata. Aldo Battagion è stato l'unico partigiano che nel dopoguerra, alla sua, insomma, quando i partigiani compilavano i vari documenti per il riconoscimento di partigiani alla voce professione, lui è l'unico partigiano bergamasco che indica la voce industriale. Lui è sostanzialmente liberale. La cosa veramente caratteristica di Battagion è che lui fu un rugbista, quindi giocò a rugby, era mediano di Mischia, quindi numero 9, e praticamente fu il primo nazionale bergamasco durante gli anni del fascismo e nel secondo dopoguerra. E lui quindi da rugbista, insomma il rugby lo aiutò moltissimo per sua stessa missione nei momenti più difficili della resistenza, perché lui era un militare, subito dopo l'8 settembre viene catturato dai tedeschi, riesce a fuggire, a tornare a casa e subito sceglie da che parte stare, sceglie di stare dalla parte dei partigiani, sceglie la resistenza. Io penso spesso a questo giovane che aveva poco più di 20 anni. Dal campo di gioco al campo di battaglia, all'adesione alla resistenza nelle valli orobiche, sceglie Battagione da che parte stare. Altrimenti, ci ricorda ancora Cristiano Poluzzi, che mediano di Mischia sarebbe mai stato. Fa questo continuo parallelismo tra il mediano di Mischia e la resistenza, perché il mediano di Mischia un po' è il vero regista della squadra di rugby, perché è vero che noi tutti abbiamo l'idea che sia il mediano d'apertura, il numero 10, ma è il mediano di Mischia che è quello che raccoglie la palla dai raggruppamenti, che la mette nella mischia e che decide come impostare l'azione. Quindi lui stesso dice che io ero un ponderatore, dice Battagione, quindi era abituato a pensare, a resistere, e quindi quella duttilità anche di pensiero lo aiutò moltissimo unitamente alla resistenza fisica, perché il rugby è uno sport di contatto, lui era abituato come tutti i rugbisti a combattere sul campo da gioco, e dice proprio in partita io chiaramente prendevamo le botte tra di noi, perché i rugbisti, insomma, immaginiamoci il rugby degli anni 30, molto, molto primitivo rispetto a quello di oggi, e poi dopo lui, insomma, quella resistenza fisica lo aiuta moltissimo anche a resistere alle botte dei fascisti in carcere, dei nazisti a Dachau. E questa fu la sua testimonianza che lasciò così nel 2000. La sua fu una scelta radicale come quella, è bene ricordarlo oggi a 75 anni di distanza, come quella di tantissimi altri giovani che scelsero la montagna, scelsero la guerriglia partigiana, scelsero la resistenza. Una scelta coraggiosa perché fatta a 20 anni, 22, 23 anni, quindi nel fiore degli anni, e fatta da una generazione che poi insomma, ha dato tantissimo in termini di sacrificio umano e di vite proprio alla futura Italia liberata. Quindi la sua scelta è coerente anche con il tipo di giocatore che era, e senz'altro possiamo leggerci anche una bellissima metafora del mediano di Mischia, che sceglie l'azione, lui che sceglie il campo in cui giocare la partita più importante alla fine. 20 anni, troppo pochi forse, anche per scegliere come sviluppare l'azione di una squadra di rugby. Un soffio di vita appena se a 20 anni scegli invece di combattere un nemico più grande di te, più grande di tutti, in nome di un ideale praticamente a mani nude. Il Battagion partigiano lascia presto il posto, purtroppo, all'Aldo Battagion deportato a Dachau. Ancora Poluzzi. Lui è inquadrato per pochissimi mesi, perché viene catturato in un'incursione, in un blitz fascista presso potremmo definirlo un rifugio in Val Brembana, insieme ad una brigata di comunisti. Fa qualche mese in carcere a Bergamo, poi a Bolzano, è torturato ma non fa nomi, e poi viene deportato a Dachau. Quindi la sua vicenda diventa molto molto complicata e dura, ed è proprio a Dachau che lui resiste per 6 mesi, e in un'intervista fatta nel 2000, in una video intervista rilasciata a due miei colleghi che poi avevano cercato e sono riusciti a pubblicare un resoconto per il 50° anniversario della nascita della Rugby Bergamo, lui in quell'intervista lì, per la prima volta, e da quello che io so anche per l'unica volta, parla della sua esperienza di Dachau e dice proprio espressamente che a lui il rugby ha salvato la vita. La memoria a volte è anche silenzio, pudore, intimità. Aldo custodisce dentro di sé i ricordi di quei giorni sofferti e terribili. Solo il tempo aiuterà anche i familiari a vedere, capire, scoprire. Titti Battagion, una delle figlie di Aldo. lui è stato totalmente restio a parlare di questa esperienza tragica e noi siamo venuti a conoscenza, ma neanche dei dettagli, siamo venuti a conoscenza della storia nel suo insieme in età adulta. Cioè io ricordo che mio padre abbia raccontato per la prima volta tutta la storia, cioè diciamo dal momento in cui è stato catturato, dal come è stato preso, il dove e poi tutti insomma i vari carceri fino ad arrivare a Dachau, soltanto direi una ventina d'anni fa. Cioè mio padre quindi era già anziano, è mancato da 13 anni, quindi insomma era già molto in là con gli anni, noi eravamo cresciuti e forse complice anche il fatto che mio marito era particolarmente interessato, quindi gli aveva fatto delle domande e lui si è sentito di raccontare. Quando noi eravamo piccole non ci ha raccontato mai nulla e la consegna in casa era un po' la consegna del silenzio, perché non lo si voleva turbare con questi ricordi e lui non aveva nessun interesse a esternarli. Qualche istante di pausa ora, poi ancora insieme qui a Olimpia per seguire il sentiero lasciato da Aldo Battagione, il rugbista partigiano. Olimpia. Bergamo racchiude secoli di storia nei monumenti della città alta, la Torre del Comune, Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni. Storia più recente, quella celebrata dal raduno dei reduci. Le orfane rappresentano i padri. Nella Rocca il sottosegretario Meda rievoca le vicende della patria attraverso il sacrificio dei suoi figli. Si scoprirà una lapide a ricordo di chi lottò, cadde e soffrì per l'onore d'Italia. Sulle orme di Aldo Battagione, il rugbista partigiano. È il sentiero della memoria che stiamo seguendo oggi a Olimpia e che ci porta a muoverci tra Bergamo, Milano e Dachau, i centri nei quali si sviluppò la vita di Battagione, bergamasco classe 1922, che nella sua città natale, nella Milano dell'Amatori, si innamorò del rugby, che aderì alla resistenza e che anche grazie alla passione per la palla ovale sopravvisse alla deportazione nel campo di concentramento nazista di Dachau. Una delle figlie di Aldo, Titti Battagione, ci regala il senso di quell'amore infinito e profondo per il rugby. Io so che lui aveva cominciato naturalmente molto giovane, ma io lo ricordo che ahimè non giocava più e però ci portava regolarmente alle partite. Dico ci perché io ho una sorella e quindi la domenica, quello che una volta a Milano era il campo Giuriati, che era il posto dove appunto giocavano le squadre, e noi andavamo sempre a vedere le partite. Lui era proprio lì, voglio dire. Di quando ha cominciato lui e delle partite che ha fatto ci ha raccontato tutta una serie di aneddoti e naturalmente più legati, come dire, al contorno che non alla partita stessa, perché noi non eravamo sufficientemente tecnici, però sappiamo un sacco di cose sugli allenamenti e ancora di più sul fatto che da quanto mi raccontava mio padre non credo che siano mai riusciti a fare una doccia calda in tutta la loro vita alla fine dell'allenamento, cioè c'erano sempre queste docce gelate mentre loro erano naturalmente sporchissimi, fango e quant'altro, e quindi c'era sempre questa un po' questa fatica, e poi naturalmente invece c'erano sempre i terzi tempi, che erano le parti, come dire, che noi apprezzavamo di più di tutte i racconti delle partite. Amore che è durato ben più della carriera di giocatore, come ricorda Titti. Una volta dovevano fare questa trasferta, era già grande, era, cioè il papà rugbista inteso come quando giocava con gli old, che era una cosa che gli piaceva da morire naturalmente, si ritrovavano tutti i vecchi compagni e dovevano partire per una trasferta. Ricordo semplicemente che mi alzai a fare colazione, ricordo benissimo che il papà doveva avere il treno verso mezzogiorno, mi alzai prestissimo, non so io che cosa dovessi fare, alle 6 lo trovai perfettamente vestito con la tuta da ginnastica, la maglia del rugby, gli disse papà ma cosa fai questo, faccio una bella colazione perché oggi partiamo e dobbiamo essere già pronti, e lui era già pronto, anche vestito, assolutamente come se dovesse giocare 5 minuti dopo, quando probabilmente mancavano 48 ore alla partita. Sa, per dire l'entusiasmo che aveva lui quando si trattava di riunirsi con la squadra e stare con i suoi compagni di gioco sul campo. A Dachau la meta era la vita, il sostegno ai compagni di prigionia. Anche nel lager il filo rosso che lega Aldo a quella palla ovale non si spezza, anzi. Lui ha sempre detto, cioè l'ha detto più di una volta, che in qualche misura il rugby gli aveva salvato la vita. C'era proprio un aspetto fisico, probabilmente era un uomo sportivo, con probabilmente un fisico sicuramente giovane, ma probabilmente anche robusto, anche abituato un po' appunto a questo tipo di vita spartana, e quindi questo ha sicuramente aiutato. Aiutarsi, sostenersi, essere da supporto al compagno in difficoltà, nel luogo del mondo e dei valori capovolti, il lager, quella palla ovale, lì è l'unica etica possibile, o almeno probabile, spiega ancora Titti Battagion. Il gioco di squadra ti permette intanto di avere, secondo me, una strategia globale, in più ti permette un po' di uscire da te stesso, cioè ti permette di pensare a un gruppo che in una situazione molto tragica, come quella che può essere il campo di concentramento, permette secondo me anche un po' di diluire la tua posizione così drammatica, perché ragioni più su un tutto. E secondo me questa è stata una cosa che lui si è portato dietro e a mio avviso lo ha aiutato in una situazione così drammatica. È chiaro che poi lo sport ti dà in generale una disciplina, credo che questo sia stato un po', cioè più che altro quest'idea dello sport di gruppo. Silenzio, rispetto, ricordo, memoria. Aldo Battagion dal lager sopravvive, ma del lager di Dachau non parla con nessuno. Le tracce di quei giorni sono tutte nel grande lavoro fatto dagli storici e in un piccolo quaderno arrivato miracolosamente fino ad oggi, racconta ancora Titti. Devo dire che poi è stato fatto un lavoro enorme da parte dell'ISREC di Bergamo, che in realtà è riuscito a trovare informazioni, materiale, più di quanto quasi non sapessimo noi. Poi papà in realtà ha scritto un piccolissimo libro, proprio un quadernino, che non so come sia riuscito a tenere per tutti questi campi in cui è passato, non so neanche se l'abbia scritto appunto esattamente in quel periodo o forse qualcosa aggiunto dopo, in cui un pochino racconta la sua vita quotidiana, e quindi anche da lì abbiamo avuto insomma delle conoscenze. Episodi e ricordi riaffiorano come petali di memoria, frammenti preziosi per ricostruire vite, storie, avventure, piccoli grandi gesti che hanno cambiato e ribaltato il senso della storia, il senso delle storie. Ho scoperto molto recentemente che mentre era incarcerato nel carcere di Sant'Agata a Bergamo, quindi prima di essere deportato, condivideva il carcere con altre 3 persone. E mio padre veniva da una famiglia benestante di Bergamo e gli portavano i pasti. E ho scoperto dal figlio di una di queste persone, che anche lui è sopravvissuto, che mio padre divideva sempre il pasto, non lo mangiava mai. Divideva sempre con gli altri che non avevano naturalmente i mezzi per farsi, come dire, aiutare dalle famiglie. E questo mi sembra una cosa molto bella. Al cibo è legato un altro episodio che Titti ricorda oggi con affetto e che è l'emblema dell'amore di papà Aldo per la vita e la libertà. Mio padre è sempre stato un grande mangiatore. Si racconta che finite le partite di rugby andassero al ristorante e dicessero che la lista dei primi che gliela portassero tutta. E c'è una volta in cui avevano trovato, nei giorni della liberazione, avevano trovato della carne in scatola e lui aveva scritto: oggi non mi posso muovere perché sono stato malissimo, perché come mio solito ho mangiato quando non avrei dovuto, ma la carne in scatola era meravigliosa. Aveva il sapore della libertà, aveva il sapore di una cosa che assomigliasse a carne, non fosse più pane e acqua, quindi credo che sia stato il più bel pasto della sua vita. Sopravvive ancora oggi la memoria di Aldo Battagion nella storia del nostro paese, ma anche in quella del nostro rugby, come ci ricorda Cristiano Poluzzi, giornalista, insegnante e storico dello sport. Lui fu uno dei fondatori della Rugby Bergamo, che venne fondata nel 1950, appunto avendo giocato prima nei gruppi universitari fascisti, era comunque un punto di riferimento rugbistico della zona e fondò Rugby Bergamo, che ancora oggi è la società più rappresentativa di Bergamo, 500 e rotti tesserati, è in Serie B, è una società in forma e anche dinamica. Anche dal seme seminato da Aldo Battagione è cresciuto a Bergamo e dintorni un movimento rugbistico che aspetta ora di tornare a correre per sognare altre mete, altri terzi tempi da condividere e godere insieme. Naturalmente Bergamo, non possiamo noi paragonarla rugbisticamente a Brescia o al Veneto o anche, se vogliamo, a Milano, alla Milano degli anni 80-90. C'è però una tradizione molto forte su Bergamo e negli ultimi 15 anni sono nate tante società, tanti club in giro per la provincia, nelle valli, nella bassa. Quindi è un movimento interessante quello bergamasco, variegato, che ha bisogno chiaramente a maggior ragione in questa fase di ripartenza, ha bisogno di essere tutelato e incentivato alla ripartenza. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.